piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Lo chiamavano coronavirus, metteva timore, metteva timore. Lo chiamavano virus corona, metteva paura sopra ogni cosa. Appena scesa all'aeroporto, un tizio è arrivato da un viaggio in Cina. Tutti si accorsero con uno sguardo che necessitava un po' da mucchina. Bisogna stare a una certa distanza, lavarsi le mani con molta frequenza, non affollare nessun locale, lo dice il decreto ministeriale. L'infezione spesso conduce a rinunciare alle proprie voglie, niente più sushi né per cena, né con l'amante né con la moglie. E fu così che da un giorno non all'altro... Non so sinceramente chi sia l'anonimo artista che ha fatto seduta stante questa rivisitazione attualissima di Bocca di Rosa al tempo del coronavirus. Di fatto sta nascendo una grande creatività in rete, quelli che soltanto erano dei meme per gioco di pochi scavezzacollo, oggi sono un palinsesto reale concreto che è l'unica forma di ironia e l'unica forma di lettura trasversale rispetto alla comune, necessaria, importante lettura che viene fatta su tutti i telegiornali, in tutte le dirette, con tutti gli esperti che ormai seduta stante sono pronti e disponibili per chiunque li chiami a dire sempre quello che dovrebbe rassicurare le persone. Sono convinto che ce la faremo. Lo chiamavano coronavirus, metteva timore, lo chiamavano virus corona, metteva paura sopra ogni cosa. Appena scesa all'aeroporto, un tizio è arrivato da un viaggio in Cina, tutti si accorsero con uno sguardo che necessitava... C'è da dire che è anche il momento della TV generalista. Leggo che ieri l'ascolto del messaggio del Premier Conte che ha annunciato l'altro ieri le misure più restrittive che valevano per tutto il territorio nazionale ha fatto 22 milioni di ascolto, più del discorso del Presidente della Repubblica, più di una Coppa del Mondo, più di qualsiasi altro evento televisivo. Quindi la TV generalista, che sembrava oramai destinata a un pubblico remoto, a un pubblico in via di transizione a miglior vita, in realtà sta riacquistando grande vigore in questo momento, anche perché le persone che seguono maggiormente la TV generalista sono quelle che maggiormente si sentono esposte, si sentono in primo piano. Ho letto oggi un articolo che mi ha abbastanza sconvolto, proprio sul campione delle persone a rischio, sul giornale di Gian Michalessin, che intervista una dottoressa, Francesca Cortellaro, primaria del pronto soccorso dell'ospedale di San Carlo Borromeo. Beh, parla proprio di questi famosi anziani che per molti sono una circostanza trascurabile del fatto che tanto sarebbero morti comunque. Spiega come muoiono, alla fine dice come muoiono gli anziani per coronavirus. Sono lucidi, non vanno in narcolessia, cioè si accorgono fino all'ultimo momento che stanno per morire, ma muoiono soli perché sono in isolamento. E dice la dottoressa, è come se stessero annegando, ma hanno tutto il tempo per capirlo. L'ultimo che ho visto morire è stata questa notte, una nonnina che voleva vedere la nipote. La dottoressa ha tirato fuori il telefonino e gli ha fatto una videochiamata. La nonnina ha salutato la nipote, è morta. Quindi la dottoressa chiede, ma perché non ci mandate dei tablet che possono servire a far morire queste persone? E beh, diciamo che io in tanti anni che analizzo e studio la comunicazione non mi ero mai posto il problema dell'iPad psicopompo, della tecnologia di comunicazione, le nostre protesi emotive che servono per aiutarci a morire meglio o a morire con un altro cristiano che possa almeno vederci e darci le ultime parole di conforto. E questa è una delle novità del coronavirus, questo è uno dei motivi di riflessione che noi in giornate di forzato isolamento abbiamo modo di fare. 800240024, anche oggi voglio darvi un tema che può aiutare a riempire il tempo dell'isolamento dal resto del mondo. Il tema di oggi è le rinunce. Avete provato a fare un elenco delle cose a cui state rinunciando o avete rinunciato e nemmeno vi accorgete che abbiate potuto rinunciarvi? Conosco molte signore che hanno rinunciato alla domestica, alla donna di servizio, alla cameriera, alla colf. Sembrava impossibile, non potevano farne a meno. E da qualche giorno, siccome la signora deve stare a casa, perché anche lei ha necessità di cautelarsi, di cautelare le altre persone, stanno facendo tutto da sole e non se ne rendono conto. Altri signori e signore hanno rinunciato alla palestra. Come sembrava impossibile, senza quell'ora di palestra io non mi sento di poter vivere, devo farla assolutamente, indispensabile. In questo momento le palestre sono chiuse. Altri avranno rinunciato a farsi le punturine, altri avranno rinunciato ad andarsi a fare il massaggio dalle cinesi. Poi i rapporti personali, i rapporti umani, i rapporti leciti e quelli clandestini. Oggi trombano soltanto gli sposati che hanno marito e moglie vicino, se ancora ne hanno voglia, se ancora ne trovano l'estro. E gli altri come fanno? Chi è fidanzato, chi è un amante lontano, chi ha un amore in un'altra città, ma semplicemente in un altro quartiere, cosa fa? Si fa l'autocertificazione e per i motivi improrogabili ci scrive «devo andare a incontrare il mio amore». Beh, oggi vorrei capire da voi quali sono le cose a cui state rinunciando. Alcune magari ci possono anche far bene. Ah, io non sono mai stato tanto bene come in questo momento. Non mangio maialate, non mangio cornetti al bar, non faccio nulla delle cose che minavano la mia salute. E voi quali sono le cose che state non facendo che vi fa stare meglio? 800 24 00 24, e vediamo se abbiamo il primo ospite in collegamento. Serena Nardo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti. Allora, Serena Nardo è un medico nutrizionista e i suoi pazienti necessariamente in questi giorni se ne stanno a casa e quindi probabilmente i regimi alimentari e di salute che imponeva loro la dottoressa Nardo sono costretti ad applicarli di persona. Sta notando un cambiamento nel livello di salute medio dei suoi pazienti, dottoressa? Sì, in realtà già da qualche giorno, ancora prima che le misure poi di contenimento fossero così restrittive, avevo visto che c'era stato un calo notevole proprio di quello che dicevi, cioè della vita sociale. E quindi meno aperitivi, meno pizza, ma anche per esempio meno pranzi fuori casa. Quindi per esempio la persona che in pausa pranzo magari mangiava il pezzo di pizza al volo, adesso a casa deve cucinare e non c'è più la scusa del non ho tempo. Questo forzosamente, cioè gioco forza, è una necessità, però io ho visto veramente un miglioramento qualitativo nei pazienti, un dimagrimento in alcuni, ma proprio un miglioramento su tanti sintomi anche gastrointestinali, poi un po' quello che dicevi infatti anche tu che hai osservato, quindi effettivamente qualcosa cambia, perché la socialità è la spinta più grande all'avere minor resistenza sulle tentazioni, quindi quando questa viene meno, insomma, diciamo prepararci l'aperitivo da soli a casa è un po' improbabile, quindi in questa chiave di lettura possiamo vedere un miglioramento. Ecco, questo fa riflettere sulle antiche medievali citazioni delle pestilenze che servono a far capire agli uomini che deve cambiare qualcosa della loro vita. Adesso io sono il più laico degli individui, non voglio dare questo senso, ma in una sorta di disciplina che ognuno si poteva imporre, si poteva tranquillamente imporre, tranquillamente poteva seguire certe norme. Dico, ci ha voluto il coronavirus per far capire che in realtà le persone si massacravano da soli la salute, poi salvo correre all'ultimo momento a cercare il rimedio disperato quando ormai è tutto fatto e tutto è irrimediabile. Un'altra ascoltatrice, Lara, buongiorno. Laura? Sì, Laura. Ecco, sì. Scusa, sì. Ma la precarietà di questa situazione mi sta facendo aprire e chiudere 50 finestre. Ecco, Laura. Laura è un'ascoltatrice del gruppo fantastico su Telegram che ci sta seguendo ormai da mesi, che si chiama Meloga Parlato Home Edition, naturalmente, e anche lei probabilmente mi può fare un elenco di attività irrinunciabili a cui invece deve rinunciare. Allora, io in realtà non ho rinunciato a tantissime cose, ho più una giustificazione per godere di quello di cui prima mi vergognavo. Cioè, la tua vita è rimasta identica, allora non stai applicando l'isolamento dal mondo come gli altri. Non sono più obbligata ad andare in quei 12 pub stipati, caldissimi, quindi quasi quasi sono più sollevata. Quello che invece ho notato riguardanti le rinunce dei miei familiari, ieri è successo un episodio molto carino con mio nonno che ha 89 anni, insisteva per voler andare a fare la spesa al supermercato, solo che nel momento in cui si stava parlando al telefono la nonna sotto doveva aver sentito qualcosa, ha capito che io stavo insistendo per offrirmi per fare la spesa, la nonna gli ha strappato di mano il cordless e mi ha fatto: prendi carta e penna, a noi serve questo, questo, questo. Quindi ho visto che il nonno, poveretto, ha dovuto rinunciare al suo ruolo di padre famiglia, alla sua autonomia. Però E questo, diciamo, si cambiano alcune dinamiche, alcuni sì, assemblaggi, esatto, di ruoli di preminenza familiare che sembravano assolutamente indiscutibili e stanno messi in discussione sicuramente. Daniela, provincia di Padova. Sì, buongiorno. Quali sono, buongiorno, le rinunce? A tutti. Sì. Io rinuncio a un abbraccio a mia mamma, sì, che ha 92 sì, anni, che è in casa con me, ma io per estremo scrupolo non ritengo di doverla abbracciare. Ma se vuole, per estensione, la rinuncia più grossa è agli abbracci con tutti e con tutto il mondo. Io spero che sì, dopo, perché lei è una grande abbracciatrice, mi faccia capire, Daniela. No, fino a un mese fa abbracciava tutti. No, non sono stata una grande abbracciatrice e questa situazione mi ha fatto capire quanto sia importante un abbraccio. E spero che lo capiamo tutti. Sì, va bene. Pensavo, immaginavo e sollecito in questa direzione anche il nostro pubblico, di parlare di rinunce più pesanti. È chiaro, l'abbraccio all'anziana mamma è qualcosa che stringe il cuore non poterlo fare più. È chiaro, il nonno che non riesce a fare la lista della spesa, va benissimo, sono d'accordo, è il momento loro, è il momento di parlare di anziani. Vi parla un anziano, io sono nella categoria di persone che, dovendo scegliere, non sarebbero intubate lasciando giustamente il posto a una persona più giovane. Io trovo che sia corretto, giusto, no, non mi scandalizzo di questo. Fra me e un ventenne è giusto che scelgano un ventenne, perché no? Ha davanti molta più vita di quella che ho già vissuto io. Ma ad esempio mi è segnalato in questo momento la notizia di un ragazzino fermato per strada, proprio in questi giorni ci sono dei controlli a tappeto, diciamo, per strada, gli hanno detto: dove vai? Sai che non si può uscire. Ha detto: vado dalla fidanzata. L'hanno denunciato, si piglierà una denuncia penale. Però mi piace questo, suo modo di dire che per lui era un motivo improrogabile andare dalla fidanzata. Ma è vero, quando c'è un amore in corso, come si fa a non vedersi? Diciamo, per molti può essere un vero problema anche quello. Vediamo se riuscite a dare un po' oltre all'abbraccio all'anziano di casa, che è una cosa rispettabile. Fernando da Modena, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, spero sì, di avere il dono della sintesi. Io in realtà non chiamo per quello che noi dobbiamo rinunciare, ma quello a cui purtroppo non siamo capaci di per far rinunciare. Parlo delle badanti. Il caso sì, io ne ho una per mia mamma che ha 91 anni e la stiamo tenendo forzatamente in casa, non la andiamo a visitare. Siamo limitati in tutto. Cioè la badante la costringete a stare a casa con voi, non c'è una casa noi, sua. No, noi la costringiamo, il problema è che hanno diritto per contratto a 2 ore di libero tutti i giorni, una mezza giornata che solitamente... Sì, ma la badante dorme a casa con voi, questo volevo capire. È domiciliata lì, sì, perché domiciliata. Questi lavori sono con convivenza ed è domiciliata lì. Lei sì, però quando esce, noi non sappiamo dove va, ma... Lo presumiamo perché si radunano tra di loro. Beh, scusi, no, adesso questo è un problema però, mi scusi, visto che sta anche a contatto con una persona anziana, poi questo è tema di Nicoletta Carbone, non ne parlo molto volentieri, però è così, se la badante deve uscire un'ora, qua bisogna fare una scaletta di priorità, ha diritto di uscire un'ora, ma non si può uscire, quindi secondo me la badante sta a casa, se esce un'ora poi va a casa sua e non torna a casa, questo dovrebbe essere secondo me la regola, perché è inutile che state tutti sigillati in casa e non abbracciate il vecchietto, se poi la badante esce, si fa tutti i giri che vuole e ritorna a casa e ci sta a contatto diretto. Sono problemi che via via che andiamo avanti ci rendiamo conto che sono molti i temi che non sempre possono essere toccati in tutti gli editti, in tutti i proclami e in tutte le ordinanze. Uno è questo: può avere l'ora libera la badante che si occupa del vecchietto? Io spererei che da qui alla prossima parte della trasmissione però tocchiamo temi un po' più leggeri. A tra poco. Melog. confronto tra Cina e Italia su provvedimenti e reazioni al contagio da coronavirus. Cina. Scoppia il virus. Quarantena da subito. Sospensione attività lavorative. Esercito per sanificare le strade. Costruzione ospedali in 10 giorni. Italia. 22 febbraio arriva il virus. No, ma non è un virus. È che non ti sei messo la maglia della salute. Muore settantenne, 89enne, 90enne. Ma tanto erano vecchi. Altri morti, ma stavano già con un piede nella fossa. No, alcuni stavano bene. Allora è virus! Zona rossa! Svaligiamo il supermercato! No! Le penne lisce, no! Mettiamo in piedi la scopa! Facciamo la mucchina in casa! Chiudiamo le scuole! E allora andiamo in vacanza a sciare! Ma noi siamo in quarantena! E chi se ne frega, andiamo a sciare lo stesso! No, ma non devi andare in vacanza! A casa devi stare! Non andare dal medico! Non telefonare al medico! Attiviamo lo smart medico! Ma quello non era lo smart working? Riapriamo le scuole! Chiudiamo gli stadi! Riapriamo gli stadi! Rimandiamo le partite! Richiudiamo gli stadi! Richiudiamo le scuole! Tutti in discoteca! Guardate che riapriamo le scuole! Tutti in discoteca lo stesso! Chiudiamo le discoteche! Metti la mascherina! Togli la mascherina! Metti la mascherina se tossisci! Ma io stavo sbadigliando! Allora fai mettere la mascherina a quello che non sbadiglia! Ma è morto! Vendesi mascherina usata solo una volta. Anche questo componimento sulle contraddizioni tipicamente italiane per il coronavirus è un altro esempio di creatività raccolta in rete. Si perde anche il senso della proprietà d'autore di questi messaggi che girano e si rientra proprio sicuramente in una delle accezioni primordiali della rete, in cui non ci deve essere un possesso, ma tutto deve essere di tutti. L'ho fatto leggere dal nostro Sfondrini, ve lo faccio ascoltare, perché è interessante, perché ripropone la riflessione più cocente, più dolorosa che facciamo questi giorni chiusi dentro casa. Perché noi italiani siamo i primi? Perché abbiamo primeggiato? Perché in tutto il mondo questo atomo piccolissimo di terra che è l'Italia ha una improvvisa notorietà in quanto untori di coronavirus? Se è così, è inutile ce la prendiamo in giro. Oggi bisogna stare attenti in giro per il mondo a dirsi italiani, ammesso che si possa andare in giro per il mondo e dirsi italiani. Voglio proporvi un caso in cui il prima agli italiani comincia a essere un po' pericoloso a voler impugnare a tutti i costi. Maria Castaneda, buongiorno. Non la sto sentendo, avevamo una telefonata di una persona che chiamava dal Messico, se in questo momento riusciamo a sentirla ci parliamo. No, non la riusciamo a sentire, evidentemente c'è un problema di collegamento o qualcosa del genere, o sono io che in questo momento non sto trasmettendo, e veramente non riesco a capire. Non sto sentendo più la trasmissione, ahimè, questo è un problema, devo dire che è veramente un problema. Se qualcuno... Ecco, vediamo se abbiamo qualcun altro al telefono, però magari fatemi capire che sta succedendo. Immagino che sia comprensibile per chi sta a casa. L'home edition significa che io lavoro da casa mia, non c'è il conforto di uno studio. Sentiamo Giorgio da Roma, se Giorgio da Roma c'è. Sì, Gianluca, mi senti? Ecco, perfetto, sì, ci siamo, ho avuto un momento di buco. Facciamo così, facciamo un patto con la regia. I buchi siano comunque colmati con qualcosa che io possa sentire, non vedendovi in faccia non so cosa succede. Giorgio, dai, a cosa stai rinunciando? Esattamente questa cosa che stavi dicendo, no, mi faceva ridere il signore della badante, perché noi abbiamo una collaboratrice domestica filippina che ci ha messo in quarantena nella quarantena, cioè è lei che ha paura di noi. Per cui gira con la mascherina, dice dove siete stati, cosa avete fatto, stavo a casa, è una cosa buffissima. Però Ma ha ragione perché siamo gli untori del mondo. Loro hanno due o tre casi, sono sani come un pesce, stanno solo fra di loro. E questa è una cosa molto buffa. Noi abbiamo rinunciato a muoverci. Ma perché ti sembra buffo? Perché dunque lei vive in casa con voi, ma lei esce? La ragazza, lei esce, la signora. Diciamo, noi abbiamo un cane e porta a fare la passeggiata al cane, poi lei esce le giornate comandate, però ecco, la comunità filippina che apparentemente è sana è molto chiusa. Sì, però scusa, qua non esistono comunità sane e comunità contaminate. La mia idea sarebbe che comunque i collaboratori domestici che escono sono come esseri qualsiasi che escono. Se il familiare non può uscire, non dovrebbe poter uscire nemmeno il collaboratore, o perlomeno il collaboratore, se no, sta a casa sua per il periodo in cui deve stare in isolamento. Questo è un problema che ancora non è stato posto. E anche il problema di portare fuori i cani. Allora, se il ragazzino di Milano è stato multato e probabilmente sarà anche processato perché andava a trovare la fidanzata, chi porta fuori il cane a fare i suoi bisogni, cos'è? Un bisogno primario? Certo, il cane mica può scoppiare, mica può farla in casa. Ma io direi sì, la può fare in casa. Visto che avete il cane, tenere il cane deve essere un lusso, vi organizzate un gabinetto per cani in casa, come fanno per i gatti, la fate e poi la smaltite, non so nemmeno come, le domande sono troppe, delle cose irrinunciabili. Luca, provincia di Bergamo. Eccomi Gianluca, eccomi. Sì. Beh, la mia è una testimonianza abbastanza cruda, io sono abituato a essere abbastanza realista e sì. Ti posso dire che da lunedì la mia, io abito proprio un chilometro dall'epicentro, mi senti bene? Sì. Mi stai sentendo bene? Sì. Sì, certo, ti sento benissimo. No, scusami, avevo paura che non ti sentivo. E quindi io ho proprio toccato con mano l'escalation di tutta questa situazione. Ma non solo dal punto di vista umano, ma anche commercialmente. Io adesso non vorrei essere brutale, ma non valgo più niente. Io avevo un ristorante fino a lunedì con 5 dipendenti, non ho più nulla. Diciamo che questo non mi preoccupa più di tanto, perché non ho demeriti in questo senso. È chiaro che i ragazzi sì. Mi preoccupano perché tanto quanto il mio futuro, il loro era legato al mio. Ma questa, diciamo, è una necessaria circostanza dolorosa e sicuramente pesa sulle tue spalle più che sulle spalle di chi in questo momento se ne sta a casa come me, può continuare a lavorare anche stando da casa. Mi reputo sicuramente fortunato. Però quando chiedo rinunce, chiedo delle rinunce sul piano personale, delle proprie abitudini. Diciamo, la compromissione di un'attività commerciale o di un'attività imprenditoriale chiaramente è qualcosa che incide gravemente sulla società, però non è una rinuncia personale. Sentiamo Paolo Mereo. Paolo Mereo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, eccomi. Ecco, una rinuncia familiare che è costata lacrime e sangue, ce ne sarà una che non sarà soltanto abbracciare i nonni o portare il cane fuori a fare popò? Sì, una profonda tragedia familiare, insomma, non la chiamiamo così, rimaniamo ancora ironici. Ho la figlia che scia non di settimana bianca, cerca di fare un po' di agonismo e aveva questa settimana fissata di allenamenti da tanto tempo. È partita sabato questo, proprio 2 o 3 giorni fa, con l'Italia che era ancora aperta. Sabato ancora era possibile, non andava nessuna ordinanza. Esatto, l'Italia era ancora aperta ed è arrivata nella stazione sciistica mentre Conte, o pochi minuti o poche ore prima che Conte ne chiudesse un pezzo. Erano ancora legalmente in un posto aperto e quindi hanno sciato la domenica, hanno sciato il lunedì. Il lunedì sera si sono trovati con l'Italia chiusa e sono rientrati naturalmente ieri tristi e mogi, però con la consapevolezza che fosse giusto rientrare e anche alcuni di loro con la consapevolezza di aver fatto una cosa un po' stupidotta. Tanto è vero che poi mi ha confessato mia figlia di aver fatto una donazione alla Croce Rossa per la vergogna. Questo è. Beh, insomma, questo assolve probabilmente la sua coscienza. Sta di fatto che oggi è forse più facile imporre ai figli quelli che sono dei comportamenti sui quali abbiamo sempre dovuto fare delle negoziazioni sanguinose. Oggi non c'è più bisogno di dire non ci vai, se no non ti do più la paghetta, non ci vai perché non è giusto, non uscire perché ci preoccupiamo, facci sapere dove vai. Oggi c'è tanto di decreti governativi sui quali possiamo comunque esercitare nei limiti del possibile la nostra potestà sui figli, che almeno li teniamo e li manteniamo sotto il nostro tetto. Ci fermiamo ancora un istante. Melog 800240024. Non riusciamo più a metterci in contatto con la mia amica messicana. Mi sarebbe piaciuto fare raccontare da lei la storia, ve la sintetizzo io. Maria ha un marito italiano e vivono insieme in Messico, tra di loro parlano italiano perché l'italiano naturalmente preferisce parlare la sua lingua. Lei è sempre stata molto fiera nelle sue amiche, nel suo giro, di dire: io mi sono preso un italiano, mi sono sposato un italiano. Era anche molto invidiata. Da qualche giorno mi ha chiamato Maria, me l'ha detto via Skype. Ha dei problemi andare in giro col marito italiano, è vista come fosse quasi una contaminata. Dice: ma tuo marito da quant'è che non torna in Italia? Vanno al ristorante e tra di loro parlano italiano, si accorgono che le persone ai tavoli intorno si alzano e si allontanano. Questo per farvi capire quanto deve cambiare anche la nostra percezione di persone che comunque ce la fanno sempre, comunque possono sempre riscattarsi con l'estro, con la furbizia, con l'intelligenza, con la capacità di adattamento. In questo momento, in qualunque parte del mondo si vada, anche quelle più remote, parlare italiano fa avere la stessa sensazione può avere una persona con la pelle di colore diverso. Non voglio fare quel buonista, figuriamoci, non ci penso nemmeno, quando è visto con uno sguardo magari di disprezzo, di raccapriccio, quando è seduto sulla metropolitana. Questo per capire che in fondo questi giorni ci danno anche delle lezioni. Francesco, provincia di non so dove, provincia Francesco. Ciao, Gianluca. Ciao, sì. Gianluca. Niente, quello al quale diciamo sto rinunciando io a 25 anni, diciamo, è l'amore della mia ragazza, al quale diciamo è lui. A un confine, cioè una città limitrofe, siamo a 5 km di distanza e facevamo una vita praticamente da conviventi, però per una questione di status, per il quale diciamo non lo siamo effettivamente conviventi, io non la potrò raggiungere fino al 3 aprile. Vabbè, ma perché scuola, non potete decidere di stare tutti e due a casa di uno o a casa dell'altro? Il problema è che lei vive ancora con i genitori. Non è possibile questo. Vabbè, non è possibile. Quindi non vi vedete più, starete almeno 14 giorni senza vedervi? Di più, almeno 21. Come ovviate, diciamo? Vi collegate via Skype la sera, fate lunghe telefonate? Lunghe telefonate di un'ora e più, nel quale diciamo ci raccontiamo. Però la cosa che mi fa rabbia è proprio questo, cioè il fatto di che lo Stato non consideri un amore alla fine maturo un qualcosa di necessità, è un qualcosa che comunque accetta. Però scusami, no, ho capito, ti rendo conto, figuriamoci, l'amore vince ogni cosa, però non puoi pretendere che fra le circostanze indispensabili per poter avere comunque rapporti promiscui fra persone ci sia anche la fidanzata. In questo momento se ne può fare a meno. Io parlo di una generazione che è la mia, che ha fatto il militare, soprattutto i primi 2 mesi che facevi il carri, ho fatto un carri avanzato, il vero dramma era che le fidanzate stanno lontane e allora non avevamo tutti i mezzi che ci sono oggi per avere comunque un contatto emotivo, si facevano lunghe file, tutti militari, telefoni a gettone, si aspettava magari 2 ore per parlare con 10 gettoni, dirsi ciao, ti amo, sempre con il magone che qualcosa avrebbe compromesso con l'amore. Diciamo che se è un amore concreto, reale, duraturo, è giusto anche metterlo alla prova con 20 giorni che non ci si vede, non credo che cada al mondo. Roberto, provincia di Chieti. Buongiorno. Ascolto. Guarda, io non rinuncio a nulla e non capisco cosa c'è di così drammatico. Non rinuncio a nulla, comincia a vedere. Se la tua giornata è secondo le regole che oggi stiamo cercando di seguire tutti, rinuncia a molte cose, penso, no? A meno che tu fossi già una persona sociopatico che stava chiuso dentro casa e non vedeva nessuno. Io faccio il trasportatore, sono rientrato ieri sera da Bergamo, erano le 8, e guarda, ti dico la verità, quello che mi manca è abbracciare mia figlia, perché non so se ho qualcosa oppure no. Vabbè, stai spiegando la situazione, c'è una persona che per esigenze di lavoro è costretta a muoversi, non può fare il telelavoro, non può stare a casa, non può fare lo smart working, quindi tu continui a fare il trasportatore, ma giustamente ecco qui la rinuncia. Rinuncia a quello che è il conforto del ritorno in famiglia. Per te il ritorno in famiglia non esiste perché non puoi abbracciare moglie e figlia, perché stando tu in giro sei un soggetto considerato comunque a rischio, quindi per te una rinuncia c'è. Giuseppe, buongiorno da Roma. Buongiorno Nicoletti, Giuseppe da Roma. Anche io, sì, autotrasportatore, rinuncio felicemente a tutto quello che devo rinunciare, rinuncio felicemente, perché purtroppo in giro vedo tanta superficialità, la gente non riesce a rinunciare a mettersi la mascherina dentro il supermercato, alle stupidaggini più elementari. Le mascherine è un problema, diciamo, abbastanza controverso. Io dico che se una persona si sente più sicura con la mascherina, anche se non serve a niente, si metta pure la mascherina, non succede niente. Secondo me male non fa, non salverà dal coronavirus, male non fa. Se una persona si sente più tranquillo a mettersi la mascherina e vive la tragedia profondamente in quella maniera, tenga anche la mascherina. Paola, provincia da Perugia. Buongiorno Nicoletta. Sì. Allora, no, la mia esperienza è poi quella che il signore precedente ha detto, cioè ho un fidanzato in Francia da pochi mesi e quindi noi ci muovevamo. Un amore fresco di poco tempo, di pochi mesi. Noi siamo maturi, però è l'amore di poco tempo. E no, ma come l'hai conosciuto? Come l'hai conosciuto? L'ho conosciuto in vacanza quest'estate, una vacanza in cui sono andata in Francia, io poi da lì abbiamo continuato. Vabbè, un amore estivo, dai, un amore vacanziero. Però sta continuando, nel senso che io vado su ogni 15 giorni, lui viene giù, quindi ci siamo sempre visti, a parte poi i viaggi che abbiamo fatto anche di 3 settimane insieme quest'estate. Però ora... ma qual è il problema adesso? Che dovete saltare una transumanza? Io dovevo andare sul 19, ma credo che non andrò più su. Noi ci chiamiamo costantemente, no, ma la cosa buffa è che mia figlia è anche fidanzata con un ragazzo fuori, non all'estero, però un po' lontano. Quindi qui è tutto un traffico di videochiamate la sera tra lei e me e con i vari telefoni. Quindi ecco la cosa. Quante ore ci state attaccate a Skype o qualcosa di simile? Io Skype, faccio con Messenger, ma sono sicuramente un'ora la mattina, poi qualche chiamata il pomeriggio, poi un'altra ora la sera. Perché ti manca soltanto, diciamo, il contatto fisico, ma penso che momenti di distanza aumenta il portato romantico, il portato emotivo, ci si ama di più. Poi magari quando ci si vede ci si ricorda di quello che si è e tutto torna come prima, però godiamoci se possibile questo momento almeno di sospensione della necessità di vedersi, che probabilmente consolida anche ciò che va consolidato e fa dissolvere quello che comunque sarebbe dissolto. Tutto succede prima. Ci sentiamo domani.